Sarà una serata molto originale e interessante sotto vari punti di vista, perché siamo riusciti a radunare per questa serata 8 associazioni o rappresentanti di associazioni da tutta Italia, da Lecce a Milano al centro Italia, che si occupano di cosa? No, di aree urbane abbandonate che si sono spontaneamente rinaturalizzate. Poi si è creato un bosco come i Prati di Caprara o un lago come a Roma nell'area ex industriale dell'Asnia, importantissimo per la avifauna in quel caso. Vuoi in Piazza d'Armi, aree umide prative a Milano, in 40 ettari di area rinaturalizzata. Cosa illustreremo? Intanto quanto anche in Italia, perché bisogna sottolineare che in Europa queste aree abbandonate e rinaturalizzate sono da anni, decenni valorizzate dalle amministrazioni pubbliche attraverso progetti anche artistici, non solamente di valorizzazione naturale ma anche proprio culturale. Vogliamo sottolineare l'importanza di queste aree anche in Italia per le città in cui viviamo, da un punto di vista di miglioramento anche e resilienza, adattamento ai cambiamenti climatici, e illustrare come siano i cittadini per primi a sentire le esigenze e portare avanti le istanze presso le amministrazioni, con anche dei casi virtuosi come a Lecce la foresta urbana, un'ex cava, area privata che viene in convenzione ceduta al comune per progetti appunto di valorizzazione, vengono portate le scuole e avremo appunto WWF Salento proprio a parlarci di questa realtà. Oppure a Roma, in cui appunto i cittadini di questo comitato sono dati da fare e praticamente con i vari tavoli con la regione e con il comune sono molto avanti nella procedura di identificare l'area come monumento naturale, quindi vincolarla da un punto di vista naturalistico. È quello che è un po' i passaggi vari che vorremmo anche fare anche noi qua con i Prati di Caprara. Quindi l'idea è parlare ai cittadini e coinvolgerli e informarli di queste aree, dell'importanza di queste aree, e poi fare rete anche tra di noi e prendere spunto dalle varie realtà esistenti. Fare rete è un tema importante, Comitato dei Cittadini per la rigenerazione e non speculazione dei Prati di Caprara ha fatto rete a livello locale, ma c'è bisogno di parlarne a livelli sempre più grandi. Da un punto di vista europeo avremo ospiti il Comitato dei Cittadini in Piazza d'Armi di Milano, un'area molto simile ai Prati di Caprara, sia per estensione sia perché ex demanio militare, che hanno fatto una petizione europea che sta andando avanti proprio per sensibilizzare e far conoscere all'Europa, al Parlamento europeo, queste situazioni che devono essere considerate e tutelate per proprio i benefici che danno ai cittadini. Possono essere pensati, progettati degli interventi minori, sostenibili per la fruizione, per la sentieristica, per i cittadini, però ciò non toglie che bisogna, il punto di partenza è osservare quello che abbiamo, che non è degrado ma un'opportunità. Capita spesso infatti che i cittadini, prima delle pubbliche amministrazioni, si ritrovino dentro questi progetti coinvolti per fatti emotivi, ma anche per volontà e voler bene all'ambiente. Sicuramente, spesso quello che vedo anche proprio nella professione è la mancanza di conoscenza, uno passa e dice ah, che area abbandonata, poi invece anche come gli esiti di struttura pubblica, la piccola, piccolissima, perché poi non è stato deciso niente da un punto di vista accogente delle norme, praticamente è stato riconosciuto l'area di Prati di Caprara bosco molto importante, perché prima sembrava area abbandonata con della vegetazione. Faccio solo due numeri: in 25 ettari tra bosco vero e proprio, prati eccetera, abbiamo rilevato finora quasi 190 specie di flora, 42 specie di uccelli, 40 lepidotteri, farfalle, ecco, tanto per dire l'importanza di queste aree. Numeri di questo genere non si trovano su parchi importanti ma progettati secondo metodi convenzionali. Ovviamente bisogna tenere conto che questo bosco dei Prati di Caprara ha ormai più di 30 anni sulle spalle, quindi ha un passato, un substrato, una massa vegetale di un certo valore. Ricordiamoci che tra l'altro Prati di Caprara è dietro l'ospedale maggiore, un'area, proprio la campagna di aria Pesa ha dimostrato tra le più inquinate di Bologna, pensate, quell'area senza 27 ettari di zona verde, che cosa può diventare? Una camera a gas.